Massimiliano, guarda a vedere se è salito il segnale. Sì, 9 più 15. E prima quanto era? 9,5? Sì, prima eri 9 a picchi 9,5. Aspetta che abbasso la potenza, allora, vabbè, così è la potenza alta. Così a potenza bassa, abbassato? A voglia, 10 dB scendi. Ok, allora anche il DAC è tornato a posto, va bene. E cosa stavo dicendo, la modulazione va bene? È bella. Bello, Michele non è? Sì, Michele è una manetta. Ma il microfono è basso e ce l'ho a 4, perché se lo metto strappa, capito? Troppo forte. Prova a vedere, metti la 5, 6. Sì, guarda, strappa, mi hanno detto che strappa è troppo forte in vicinanza, capito? Ma così è già bella, quanto ce l'hai così? Ce l'ho a 6, a 5,5, 6, dai. Però strappa, mi hanno detto. È troppo forte, manca di modulazione a volte, capito? Io comunque non lo sento mancare modulazione, forse la 5. Allora, così a 5 i toni sono a 2, come ce l'avevo prima, dai. Buona modulazione, va bene. E lasciamo così, dai. E già li dai, batti, dai, già pompa, vedi che manca la modulazione. Si è abbassato un po'. Te l'ho detto. Ora. Vedi che manca. Se lo metto manca. Non so perché. E bisogna usare questa radio. Bisogna farla andare, sennò è un casino. Se no la perdo. Tanto per fare questo così a livello locale va bene. Adesso la potenza già ce l'ha tutta là. Prego. Ok, va bene. No, così va benissimo. Sì, registrato, prego. Sì, magari tu muovi un pochettino lì la monopolone del Mickey Gay e qualcosa, va? Ok, avanti il brocco. Sì, ciao, buonasera. Roberto da questa parte. Ciao, bla. Ciao, Roberto, buonasera. Sto usando il DAC e l'ho messo a posto, adesso la potenza ce l'ha tutta, siamo intorno ai 30 watt, 25 e 30 watt, dai. E a chi era Massimiliano l'altro? Sì, io sono Roberto. E io ciao Massimiliano. Ciao Roberto, buonasera, ben ascoltato. C'è qualche lunato, ho appena acceso io. Ma io non ho sentito nessuno, non so, sono io e Claudio. Io non so, c'è qualcuno vuole entrare? No, c'è nessuno, no. Vabbè, il segnale com'è? Sempre al solito adesso? Che l'altro giorno mi ha detto che stavo uscendo basso. No, adesso sei quasi 9,60 con i picchi, 9,55 è tendente a 9,60. Non c'è quello strappo di ieri o avantieri, grande che non mi ricordo ieri o avantieri, che ti ho sentito, che saturava e andava, si interrompeva la modulazione. Però su quell'apparato, l'altra volta, mi sembra che avevi messo tu un turner, se non sbaglio, o sbaglio. Ma era troppo forte, adesso ho messo il più 5, capito, sto usando. Adesso ho abbassato la potenza, adesso ce l'ha tutta. E il segnale si è abbassato? Sì, si è abbassato, adesso sei 9,45, però la radio adesso non mi piace, là. È troppo forte, ecco, la potenza più alta va meglio, no? Così va meglio. Sì, molto meglio, non capisco come mai, diminuisce e si sente un pochettino satura. Non lo so, vabbè, molto ferma questa radio, adesso è accesa da stamattina giusto per farla scaldare, questo c'è lo stadio finale a valvole e quindi insomma per farla andare. Cambiato valvole, cambiato tutto, messo a posto, adesso la potenza la dà tutta. La dà tutta da 4 watt fino a 25 watt. Va bene, avanti Massimiliano, riprendi. Sì, claro, potresti provare anche un'altra cosettina, giusto una prova così, potresti, quando abbassi la potenza, diminuirla leggermente ancora il macchinino, per vedere se cambia. Se cambia, allora, così abbassiamo la potenza, lo mettiamo così, allora così è a 2 a 2,5 così. Si abbassa parecchio la radio. Molto. Te l'ho detto, no. Non so. Lasciamola così. Dai. Aspetta, ritiro sulla potenza, riprendi Robe. Allora cambi anche la tonalità comunque. Oltre che tutto diventa paperina la modulazione, ti stavo vedendo sullo strumento, cambia anche la modulazione, cioè completamente diversa. Lo so, me lo già dico. Vabbè, tieni conto, sto usando una radio americana vecchissima, però la modulazione io sono in cuffie e va bene così, dai. No, così va bene, quando abbassi la potenza satura, ti toglie tutte le frequenze acute, cioè ti dà predominanza di medi e ti toglie le acute, ti sta guardando, cambia completamente la cosa. Il livello non l'ho guardato, riproviamo a fare una prova, cioè il livello di modulazione cambia, prova a parlare con uno e con l'altro sistema. Così è a potenza alta, questa è la potenza alta, sono circa 25-30 watt modulati, dai, capito? È troppo bassa la potenza, vabbè, è 4 watt, 3 watt e mezzo, là, capito? A bassa potenza. Guarda a vedere, così sono potenza alta. No, fa la prova, potenza alta e potenza bassa, voglio vedere se ti cambia anche l'intensità di modulazione. E questa qua è la potenza bassa, questa è la potenza bassa, sono perlomeno qua sta segnando sia nella radio che nel watt, mentre lo sta segnando 3 watt e mezzo, neanche 4 arriva, capito? Adesso metti il massimo. Così è il massimo della potenza, 20, quasi 30 watt, dai. Allora sembra che sia sottoalimentato lo stadio microfonico, perché tu come abbassi la potenza diminuisce di gran lunga la modulazione, proprio sembra tipo citofono, ti togli tutte le frequenze acute e rimangono solo i midi, proprio ti danno un altro tipo di tonalità e si abbassa anche il livello di modulazione. Con la potenza massima va più che bene. E allora potenza massima lasciamo, già va bene. Lasciamo la potenza massima, non ci sono problemi. Dovrebbe essere 4 watt, all'incirca sono quelli, già va bene. No, quella radio per me è la più bella radio di quelle che ho visto io, di quelle d'epoca, è la più bella in assoluto, la cosa. Naturalmente bisogna ammirargli un microfono di un certo pregio. Tu c'hai un MB più 5, mi ha detto. Sì, ma con l'MB più col timer anche va bene, ma l'MB più 5 è ottimo per questa radio, non ce n'è problema. Posso mettere qualsiasi tipo di microfono e va bene lo stesso, capito? Già va bene. Ok, è giusto per farla camminare un po', niente di particolare. Avanti Massimiliano. Qua, se non ti scoccia, prova il microfono, quello palmare del Super Sub, mentre mi andò. Perché cosa c'è, lo stesso attacco? Vabbè, non stai usando la prolunghetta tanto. Ehi, ma dietro ho fatto un lavoro particolare, no? Non si vede niente, sembra ci sia l'attacco suo, no? Lascia pigliare, fatti di. No, non giù adesso di. Devo togliere il cavo da dietro, un casino. Va bene. Vabbè, ma tanto io il microfono ormai non li uso, ma si vede. Piace il microfono a tavolo, poi c'ho l'altro il tanner, posso farle anche le connessioni, ma non me ne fate nulla. È giusto per farlo andare, per provare, per tenerlo un po', per farlo scaldare, sto qua, capito? Avanti Robè. Quella in assoluto, claro, no? Perché sei tu, di tutte le radio che ho sentito, naturalmente con microfono subabinato è quella che ha la voce più fedele alla realtà, perché ti dà proprio una tonalità calda, bella voce. Diciamo qua non lo stai sfruttando neanche al 50% con la radio, perché se metti quel microfono, mi ricordo se era col tanner o con lo Shure che andava una bomba, l'avevo sentito anni fa, non mi ricordo a chi, se non a te pure, mi era una cosa spettacolare con l'apparecchio. A me l'hai sentito, no? C'avevo il tanner io, l'avevo su questa radio, c'avevo il tanner prima, quello grigio, l'avevo dato con una radio d'epoca, capito, lo stesso. E va bene, no, ma comunque abbastanza affidabile anche l'MB più 5, dai, non c'è problema. Sì, no, va bene, niente da dire assolutamente, però se vuoi il top, il massimo, massimo con un altro tipo di microfono di quelli un po' più seri e riesce a farla sentire ancora meglio, perché la radio è chiarissima, perfetta, però è predominante di tonalità acute e medie, mentre con quello là era più lineare. Il Tanner è Tanner, dai, non c'è niente da dire, comunque va benissimo. Ma questa è quella che aveva Daniele ultimamente, Cla? Non ho capito, sì, è un bel forte, cos'hai detto? Ho detto se è quella che aveva ultimamente Daniele questa radio. Ce l'ho proprio 5 anni o 4 anni, 5 anni, boh, forse anche di più. Sì, questa l'aveva comprata Daniele da Walter e poi l'aveva data a me. Questa penso in Sardegna ce l'abbiamo solo io, Walter e Marco. Non penso che ce ne siano altre, no. Anche perché sono molto costose, ma poi sono molto ingombranti, capito? Quindi non è così. Guarda, togliendo i toni, vediamo un pochino, togliendo i toni gli acuti si sentono? Prova un po'. Guarda, qui sono senza toni, microfono libero, mi sembra che mi sento con gli acuti molto, molto più alti. Cioè, un bel di Cla, diciamo, ma li puoi togliere gli acuti tu con la radio? Certo li posso togliere, così te li tolgo. Robè, non confondere, perché tu sei un maestro in queste cose. Cioè, voglio capire se togliendo la tonalità microfonica riesco ad avere i medio-alti più acuti o rimangono sempre i medio-bassi. Adesso ho tolto un po' di acuti, dovrei avere più bassi, giusto? Hai migliorato la giorno o la notte, Cla, da commentare prima. Puoi ancora diminuire con quelli, cioè togliendo o diminuendo ancora? Sì, sono al minimo appena. Posso mettere anche così leggermente, va meglio? Assolutamente, così è la migliore di tutti. La prima è troppo predominante di acuti e di media, adesso è più lineare, c'è anche dei bassi adesso. Anche da te Massimiliano, tu mi stai ascoltando col 14. Sì, io infatti stavo aspettando a riprendere a dirti di aumentare un pochino. Sì, da giorno alla notte, completamente insomma un'altra radio adesso. Quindi così con i bassi, cioè con la tonalità microfonica anziché a 0 ce l'ho a 3, quasi 4, microfono a 4 è regolata bene? Sì, per me poi anche ce l'hai a 4, prova a provarli a 4 e mezzo, tra il 4 e il 5, dopo. Ecco qua i toni, ho tirato su ancora più i toni, 4 e mezzo, e il microfono a 5. Ah, va benissimo, va bene, niente da dire, è ottima. Siamo a un capo adesso. Vabbè, tenete conto, la mia voce è sempre quella, non c'è niente da fare, no? Sono a 25-30 cm dal microfono e parlando normalmente come parlo col K, con l'MC60, quindi non è che cambi niente. Vabbè, l'importante è avere una linea, una tonalità e seguire quella, beh. Quindi a 4 come tonalità e a 5 come volume del microfono, va bene così allora. Guarda, claro, non lo toccare, è perfetto, adesso è lineare la modulazione, c'hai tutto, non ti manca niente. Poco fa c'avevi un bel di acuti e molti medi, adesso sento i bassi, li sento la voce tua, ha detto lui, sembri con un K, con un MC60. Vabbè, lasciamo così, ma infatti poco fa Massimiliano mi ha mandato un messaggio se entrava per regolare, perché l'ho terminata stasera, l'ho tutta chiusa, pulita, data una bella passatina, tutte le parti anche dentro, tutte le valvole, tutte pulite con l'alcol, ripiazzate, tutto, e adesso la radio è a posto, dai. Ok, fai una cosa adesso, prova a bassa potenza, vediamo se ha migliorato anche a bassa potenza. 4 watt, così stiamo a 4 watt, 4 watt, 4 watt. Ma è bello anche così, la verità, Cioè, quando con l'alta potenza è superiore, però anche così è bella. Però qua. Ha migliorato anche così, Robert. Ha migliorato, però qua ti mancano tutti gli acuti, così ti taglia completamente le tonalità acute e medio-alti. E te le taglia sempre chiara, però non c'ha paragone con quando c'è la prima potenza, una cagosta. No, ma intanto lo lascio. Non la stavo usando proprio perché c'aveva pochissimi watt, quindi mi ero accorto che insomma non era in grande perdita, adesso lascio l'alta potenza, lascio sempre così, no? Non devo stare a abbassare, tirare, potenza al manetta, sono allora in scala 20 sono, vai. Scala 20, va a fondo scala, in scala a 200 siamo intorno ai 30 watt, va bene, 25 watt. Ma quella è alimentata a 220 o era a 110 con la parete opera? No, no, a 110, c'è il trasformatore a 110. E via. 9,15, pieno pieno c'è qua, Sì, già va bene. È giusto per avere qualche watt in più, capito? Sì, ma guarda che per bassa potenza, per città, deve fare i bolchi. Sì, ma infatti giusto per fare due chiacchiere, almeno la faccio andare, dai. Infatti l'ho lasciata accesa, giusto così, per farla scaldare bene. Ma la bellezza, roba di questa radio, è che non c'è bisogno di occhiali, C'è il rosmetro che sembra è uguale, è lo stesso strumento che c'è nel quello della ZG, uguale. Poi c'è il misuratore di corrente della placca delle valvole, tutto con due scale. La seconda scala è quella del power della radio, c'è il modulometro, lo sta modulando quasi sul rosso al 100%, e poi c'è lo smitter che è enorme, quindi non ho bisogno di occhiali, capito? Però forse ti sei abbassato un po' di radio, riprova. Mi sono abbassato di radio? Cos'è? Non ho giudicato nulla io. No, adesso no, poco fa forse non so, ti sei spostato dal microfono, non lo so. Sì, vabbè, la misura è questa, magari mi sono girato per vedere un po'. La misura è questa, capito? Sono intorno ai 25-30 cm dal microfono. No, forse hai girato, non eri in direzione, direzionato sul microfono, adesso è perfetta, bellissima, non niente da dire. KK, avanti Massimiliano. Ehi, per cui mi hai risuonato un'altra radio, va bene. No, lo sai, i baracchini ce li ho, e anche belli, sono dentro l'armadio. Ma stare a mettere baracchini e baracchinetti qua, invece là che è sempre fermo qua, lo sai dov'è? Non ho fatto altro che mettere il microfono da tavolo e basta, e così lo accendo e lo uso, capito? Senza stare a usare altri baracchini. Voglio stare col baracchino, sto col baracchino, questo è un baracchino a tutti gli effetti, non è che cambia niente, no? Anziché stare a metterne altri, a stare prova che ti prova, come avevo fatto prima, era una settimana, cambia uno, cambia l'altro, invece c'è questo e uso questo. A voi, va bene, perfetto, ce ne per i maiali ce ne qua, a voi. Avanti Roberto. È troppo bello, io adesso me lo sto guardando in fotografia con l'apparecchio, me lo ricordavo vagamente, c'ha quattro strumenti azzurri con il numero della frequenza centrale, là. E i due manopoloni, le due maniglioni grandi con l'argento, bellissimo. DAC 9 è questo. Quello è il DAC 9, io ho il DAC 10, che è ancora superiore. Che bello, cazzo. Poi c'ha gli strumenti belli azzurri, qua c'è un video, cazzo, enorme. Avevo sempre fotografie, su YouTube c'è il video di questo qua. Se va a costruire una radio di quel genere adesso ti costa più di un HF. Quando vuoi fare l'affare me lo dici. Io ho il DAC Mark 10. Questo è il DAC Mark 10 SSB, radio telefono. Qua lo stanno usando con USA Delta di microfono, questi americani. Sì, forse mi hai sentito anche con USA Delta, non ce l'ho più. Forse mi hai sentito anche con USA Delta, c'è cioè USA Delta, il TAN più 3, più 4, più 5, gli ho messo l'SBE, li ho provati tutti i microfoni, li riceve alla grande, senza nessun problema. Però c'avevo il più 5, gli ho messo il più 5, capito? Che il più 4 l'avevo regalato a Giuseppe e quindi mi è rimasto il più 5, ma se capita posso mettere anche un tane più 3, non c'è problema, ma già va bene così per fare due chiacchiere a voi. C'è anche il DAC 10, ma gli strumenti tuoi sono luce normale, giallina o azzurri? Perché il DAC 9 c'è gli azzurri gli strumenti, il DAC 10 sembrano gialline le luci. Ti mando la fotografia da Shultidu, questo è tutto bello bianco, tutto in ordine, lucido come il giorno che l'ho comprato, capito? Anche perché un periodo l'ho tenuto dentro l'armadio, poi c'avevo questo spazio e l'ho messo qua a fare base, capito? No, lampadine bianche, poi le lampadine sono a siluro, non sono lampadine normali, e le cambi tranquillamente quando si bruciano, perché togli il coperchio che è in casso, togli il coperchio dello strumento e sotto la lancetta c'è la lampadina a siluro, capito? La dissaldi e le saldi nuova. Sì, no, è bellissimo. Poi è grande, è una cosa spettacolare, c'è anche tanto in mano, tutto in alluminio, è tipo il pace mio, il frontalino in alluminio, ma però questo è il doppio del pace. Sì, il pace che mi avevi preso. detto tu, là. Già lo so, sì, è tutto, questo c'è, tutto il frontalino cromato, cromato con le manopole tutte cromate, le maniglie sono in acciaio ossidabile, robe, non sono cromate queste. Oh, è bellissimo l'apparecchio, è spettacolare, a parte che è alto, rimane un mano con quei quattro strumenti, spettacolare, c'è proprio parigi. Allora guarda, come grandezza di larghezza e profondità è uguale al Saturnecco, come altezza di Saturnecco ne puoi mettere uno sopra l'altro. Sì, no, sto guardando la fotografia. La cosa che cambia almeno esteticamente dal DAC 9 al DAC 10 è il DAC 9 c'hai gli strumentini illuminati di azzurro, ma dall'altro ce li ha bianche le lampadine, vabbè, so che si dia. Poi non so se abbiano fatto qualche modifica, non so, di le bande laterali ce l'avevano anche quello là, il DAC 9 mi sembra. Manca le FM, non hanno le FM, bisogna vedere, rovescio uguale, perché gli strumenti qua segna tutto, cioè scrive tutto questo, calibrazione, strumento, e ti segna il CWR scritto, e sotto ci sono le scritte, poi RF Power, ok, te lo segna, RF Power, te lo scrive lo stesso, Plate Current, te lo scrive lo stesso, all'altra parte ti scrive ANL 1, NB 2, OFF, FAST e AGC, ti scrive tutto proprio sotto, poi trasmissione e stand-by delle valvole, FAST, LOVE, OFF. Poi dall'altra parte c'è il pomellone Mickey Gain, AM, USB, LSB, il clarifier, il pomolo, il manopolone centrale dei canali, RF Gain, Squelch, tono e volume. No, è bello, me ce l'ho trovando proprio qua in primo piano, lo sta provando questo qua americano, sta facendo vedere le prove, c'ha tutto, c'ha quattro strumenti, poi sotto c'ha delle lucette verdi, e sotto gli strumenti ci sono delle lucette verdi e qualcuna rossa, ho visto. No, è diverso da questo, se vuoi ti mando la foto, questo c'ha proprio tutto quello che tocchi, te lo scrive, non ne ha lucette rosse eccetera, tutto quello che proprio te lo scrive, capito, te lo scrive, qualsiasi interruttore tocchi lui ti scrive quale interruttore tu hai toccato e quale ha sollevato e quale ha abbassato, capito? No, è diverso, c'è qualcosa di diverso dal 9 al 10, poi questo è il Marche 10, Marche 10, ti ho detto, questo modello qua ce l'ho io, Walter e Marche, non ce l'ho altro nessuno. No, non so, lucetta, nel senso si illumina di verde e ti scrive quella funzione che stai inserendo, l'ho detto lucetta per dire volgarmente lucetta, no, come me lo stai dicendo tu, c'è scritto per dire c'è l'interruttore e poi come sollevi l'interruttore comunque ti appare una scritta, adesso ma non è che si vede bene, però sono, e poi l'ultima a destra si illumina di rosso, non ho capito, forse quando sei in modulazione. L'ultima a destra, no, non si illumina niente, l'ultima a destra è fast slow off, adesso io ce l'ho in fast e mi dà power on, così è slow AGC, così è AGC off, ok? Me lo dà fast AGC, eccolo qua, off, ed è spento, sì. Sì, no, è quello lì, è come me lo stai dicendo tu, poi c'ha il tastino, c'ha due potenziometri sotto lo strumento, uno tutto a destra e uno tutto a sinistra, e poi ci sono quelli grandi sotto alluminio, neri, ci sono due potenziometri, forse sono commutatori neri, uno tutto a sinistra sotto il primo strumento e uno tutto a destra sotto l'ultimo strumento, del commutatore nero, così. E una è l'SWR, poi c'è l'interruttore a calibrazione e l'interruttore RF Power, poi all'altra parte c'è AN/NB, poi l'altro interruttore è transmit e standby, e poi c'è il pomello nero che è fast, slow, off, quello lì, e poi sotto ci sono tutti gli altri pomelli cromati. E ne ha 3, 6, 7 centrali grandi e 3, 6 piccoli. Sì, è quello lì, bello, veramente. Sembra un amplificatore hi-fi di quelli della tappa del TAC, neanche un trasmettitore. Un attimino che mi allontano io un secondo, riprendete tranquillamente, riprendo subito. E il ricettore com'è qua? Sembrate qua, una cannonata. L'autoparlante suo e non ho messo niente. Perfetto, alla grande. Lo dico, è sensibile come apparato. Alla grande. Perfetto, roba. È come che sto ascoltando col col cable, no, non cambia assolutamente niente. Un attimo, la mia vicina me lo fai vedere al vivo, perché ho sempre visto in fotografia questo apparecchio. Quando vuoi, già lo sai. Domani mattina passerò a te che devo allargare quel foro e quella basettina magnetica, eh? Un attimino col trapanino. Devo allargare quel foro, cioè devo mettere un'antenna, perché c'è il foro da 4, io lo devo fare da 6. Ma dove? Nella 600? No, una basettina magnetica per avvitare un'antenna che mi serve da mettere dentro casa. Ah, pensavo che stessi bucando la 600. No, fallo già, fa vedere un caso. No, non ne metto più per radio in macchina, roba. Oggi sta a tirare molla, la radio la faccio quando non sono a casa c'è la bide luci. Il microfono è vintage, cioè cosa ti erano rimaste a peccato? L'ultimo me l'avevi dato tu, non mi avevi dato un USB e un tunnel, ne hai dato tu. Yes, no, non ne ho più, no, vabbè. C'ho il tunnel più 2, quello grigio cromato che è praticamente della linea Lecraft e basta, poi i più 5 boh, che uso qua, gli altri li avevo tutti dati. Quelli che ho dato a te e poi gli altri no, boh, non mi ricordo chi li avevo dati. Devo provare sempre quella Lecraft, ti ricordi quello che mi era sempre in ufficio? Infatti, bisogna provarlo, ce l'hai sempre lì, da quando te l'ha giurato, spero che adesso l'abbia portato subito, che hai fatto l'ufficio nuovo. Sì, l'hai visto l'ufficio, tutto finito, l'hai visto? No, domani mattina vengo, dovevo passare sabato mattina, però era festa e si è rimasto chiuso. No, è cambiato parecchio, no, lo voglio provare, almeno funzionava, tu l'avevi sentito funzionare quello lì? Certo. No, vabbè, io l'ho salito un paio di mesi fa, più o meno, un mese e mezzo fa, l'ho salito a casa, però l'ho messo con la parte, perché devo togliere il trasformatore dal Ruiz, dietro il Ruiz c'è il trasformatore, l'ho preso la GBC e l'ho provo. Ma cosa ti ho dato? Il 46T? No, quello se non c'è il trasmettitore penso che non funzioni, perché io ce li ho tutte e due, infatti ti ho detto mettiti alla caccia del trasmettitore, così ti fai la coppia, non penso, non lo so. Io non l'ho mai provato come ricevitore solo, non lo so, bisogna provarlo Robert, perché io c'ho sia ricevitore che trasmettitore e quello lì era doppio praticamente, hai capito? Sì, era la linea, questo è il ricevitore, il 47, HT47. E ce l'ho anch'io quello, io c'ho l'X46, sono sempre chiaro, XT46 e poi c'ho il TX146 che praticamente è il trasmettitore col microfono suo che è un Turner 252, quello cromato tutto grigio, capito? Ma quindi questo non sai se funziona questo che mi avevi dato a me, questo ricevitore? Sì che funziona, però non so se riceve senza il trasmettitore, non lo so, bisogna chiederlo a Capri che lui ce l'aveva, capito? O ce l'ha ancora, non lo so. Io siccome stavo cercando il trasmettitore, è capitato che ho trovato che questo il trasmettitore non me lo dava, mi ha detto no, il trasmettitore solo non te lo do, te lo do tutto assieme, ricevitore e trasmettitore, e quindi l'ho presa completa, allora mi è rimasto un altro ricevitore che è quello che hai dato tu, che ho dato a te, capito? Però io non l'ho mai provato senza il trasmettitore, ho visto che accendeva, sentiva il QRM e tutto, però non so se attaccando l'antenna funziona solo dal ricevitore, capito? No, ho capito, magari viene commutato dal coso, magari in trasmissione funziona uno, ma poi sì che funziona, perché magari uno se si voleva comprare solo il ricevitore se lo poteva fare. E cosa ti volevo dire? Mentre quell'altro qua, insomma il campo, l'FR101, quello funziona, accende, ma in cosa, ricezione, mai provato là, tu quello, l'antenna non l'ho mai collegata, lo accendo, cioè lo metto in funzione, però non l'ho mai collegato l'antenna, riceveva quello. Vabbè, quelli ricevevano tutti, poi sono rimasti fermi anni, hai capito? E purtroppo tu mi insegni che i valvolari così, quando li tieni fermi, alla fine non... le valvole si esauriscono e non ricevono più, capito? Io mi ricordo, ci ho anche trasmesso con quello, perché quello è il ricevitore, ma col trasmettitore, col 101 ci ho anche trasmesso e funzionava benissimo da grande. però poi non li ho più accesi, erano tutti da collezione, siccome avevo un po' messo tutto a posto, chiuso che sei collezionista, gli ho detto no, li ha deduto e tieni di deduto, però non li ho più provati io, roba. Ma perché il 101 non è come camaravalvola è quello? E cos'è, a transistore? Oh, non lo sapevo, pensavo fosse a transistore quello. No, no, no, no, no, è il digital, quello è... c'è il coso digitale e il coso è a valvole. A me adesso mi sono reso conto che è un ricevitore quello, pensavo fosse un trasmettitore, allora avevi scritto digital receiver, infatti pensavo fosse un trasmettitore pure. No, no, è un ricevitore quello, capito, è un ricevitore quello, il 101 digital receiver, capito? Io c'avevo anche il 101, il trasmettitore, e funzionava molto bene. Poi l'avevo venduto quello, però l'avevo venduto un radioattore, capito? No, è bello, mi piace questo suo macchina. Beh, ma tra l'altro già funzionava, sì, quello il, come cacchio si chiama, il TS700, no, 7, sì, il TS700, cos'era, UHF? Quello l'ho usato, l'ho staccato usandolo praticamente quando l'ho dato a te, perché io ho il gemello di quello, però il 780, che praticamente è il B-banda, quindi ce li avevo tutte e due praticamente doppi, diciamo, dai, e quindi ho fatto anche quello lì da collezione. Quello funziona molto bene, caspita, quello esce una cannonata, banda laterale è una cannonata, giuro che tu non idrati e chi non hai battente. Sì, vabbè, è soltanto così, quando sarà, se ci avrò tempo, me ne ha passata la voglia, l'ultima volta me ne ha fatto passare la voglia a Ghisso, se no, se fosse stato dopo, a partire dopo un paio di mesi, ci sarei andato direttamente a farmelo l'esame, perché hanno passato cani e pucci, già lo sai, pucci. E già lo so, Roberto, purtroppo anche lì c'è la sua mafietta, capito? Aiutano a chi vogliono loro e se ti possono mettere in difficoltà ti mettono, però quando l'ho data io nel 93 non era così, era compito scritto, quindi o lo facevi il compito o se non lo facevi eri a casa, lì invece è domanda risposta, quindi capito, hanno più possibilità di aiutare, aiutano a chi vogliono loro e ciccia. Adesso vabbè, ormai è andata. Ok, e cosa ti è rimasto di questi vintage di apparecchiature? Di questi vintage c'ho solo il DAC e poi qua c'entro l'armadio, un 48, il Superstar e poi mi è rimasto di questi, dei baracchini, mentre invece della parte HF come vintage c'ho la linea Lecraft e come vintage in VHF c'ho lo standard base e basta, il resto ti ho dato tutto a te, Robert, tutto a te ho dato, no? A te e a Capri altri baracchini che gli avevo dato. Io cacchio, se mi avessi, forse non ci sono capiti sempre, me ne mangio le mani per quella volta del 9.40. Guarda, mi ricordo come oggi ti avevo proposto un cambio, perché a me non mi interessava, a me piaceva più il 4.40, e tu no, non lo do, ma forse di sovrappensiero pensavi che te lo volessi comprare, invece ti avevo proposto proprio il cambio, ti volevo dare il 9.40 e prendermi il 4.40 e tu non mi hai dato. No, io avevo capito che tu lo stessi vendendo il 9.40, ho detto no, ma non ne ho soldi adesso come faccio? Cioè avevo altre cose da fare, però se mi dicevi a cambio cacchio te l'avrei dato subito, tanto ne avevo un altro. E se te l'ho detto, non lo stavo vendendo, io non lo stavo vendendo. Volevo vedere appunto con te e poi c'era anche altri discorsi nostri eccetera, quindi insomma ci mettevamo d'accordo. E invece no, non mi hai capito e niente. L'avevo venduto 600 euro in continente, regalato un radioamatore in continente, ma aveva fatto la transazione Luca perché io non c'avevo manco la Poste Pay allora, capito? Ma aveva fatto la transazione lui, 600 euro, ma era nuovo. Guarda, tu non hai idea, a parte l'hai regalato 600 euro, a meno che non siamo bussumari, ma sicuramente tu l'hai messo bene, è come stai dicendo tu. Lo stanno cercando, non sai quanta gente, perché è un apparato indistruttibile, nel senso anche se magari non è di ultima generazione, però all'epoca era il top. Sto dicendo che il mio era nuovo. Guarda, se tu chiedi a Fabrizio mi aveva cambiato il LED del quella farina, il Weissgraf, come cavolo si chiama, quello lì, capito? L'avevo dato a lui, infatti mi aveva detto che era nuovissimo, in buonissime condizioni, e mi aveva cambiato quel LED, perché c'è un lavoraccio da fare, una volta Fabrizio mi aveva cambiato quella roba lì, però per il resto era nuovo, solo che poi avevo comprato altre radio nuove, lo sai che è un bar ragione, infatti era sopra il DAC, l'unico posto che lui aveva era sopra il DAC, perché come larghezza era quanto il DAC, capito? Larghezza e profondità, e quindi l'avevo messo lì sopra, poi ci dovevo mettere il monitor del computer, insomma mi stavo creando un sacco di problemi, la stanza è grande la mia, grazie a Dio ne ho spazio, però mi stavo incasinando, alla fine ma cosa me ne voto di tutti questi HF, ne avevo due nuovi, c'avevo anche il Millone allora che era ancora più grande del 940, quindi non c'avevo più spazio, è capitato, te l'avevo detto a Luca, l'ha messo su internet, ma in giro una settimana l'ha venduto immediatamente, capito? Già lo grido, ma ogni tanto fanno vedere dei film alla televisione, dei film di guerra di Vietnam e cose del genere, visto sempre questi 940, cioè, perché erano apparecchi indistruttibili, cioè potenti, affidabili. In M faceva cagare, Robert, non mi piaceva la modulazione, anche con l'MC60, niente a che vedere con quelli di stazza inferiore, no? Come il 30, il 40, C80, 140, eccetera. Potenza non aveva più di 30 watt, 20, 25 watt, una cosa del genere. Proprio era originale. In banda laterale arrivava quasi a 200 watt di potenza. Era spettacolare. In banda laterale era una favola. Solo ti ripeto, io c'avevo un sacco di HF allora. E quindi mi stavo creando problemi di spazio. E quindi ho detto, vabbè, questo è il più vecchio, lo do. E l'avevo dato, ma tranquillamente. E infatti con quei soldi lì avevo aggiunto la differenza, avevo comprato due gemellini, 275H e 475H VU, capito? Ma quello c'aveva l'alimentatore interno, se non sbaglio, 940? Sì, a 220 era allora. E quello era di bello, perché non aveva problemi di alimentazione di niente, era bellissimo a me, ma poi prendendo, io lo utilizzavo non in trasmissione, me la futtina nuda, in ricezione, perché c'è una ricezione con l'apparecchio da paura. Lo so, è una ricezione da paura, come tutte le vecchie baracche, capito? Ci sono paura se provi l'ICOM, non ha niente a che vedere con quello, assolutamente, comunque già, no, già ne ho avuto, dai, già mi sono divertito con gli HF, posso dire, è una cultura già me la sono fatta, perché stavo sempre cambia che ti cambia, adesso no, basta, adesso tengo quelle che ho e boh, vediamo se è rientrato Massimiliano, poi mi dici se sono mai mancato di radio, se va tutto bene, Roberto, Massimiliano ci sei? No, non c'è. Oh, va bene di radio, non sono mai mancato, no? No, ti sto ascoltando tranquillo. Cosa stavo dicendo? Tu guarda, c'hai 456 adesso, cos'è quello che c'hai, quello all'HF? Non ho capito. L'HF che c'hai adesso, cos'è? 756? Sì, il Pro 2. Il Pro 2 e poi c'ho anche l'altro grande, il nuovo, che è quello della IESO, dai. Lo dico domani mattina qual è. Uno della IESO, insomma, uno degli ultimi della IESO. Poi VEU c'ho spenti, il 275, il 475H, e poi quest'anno mi sono regalato il 910H, che praticamente è il modello nuovo, diciamo digitale, dai, a livello superiore rispetto ai due gemellini analogici, dai. E poi già ne ho altre, dai. Della serie Kenwood ce le ho tutte, per farti capire, tutte, dal primo fino all'ultimo. Eia, ti mancava però il tuo, mi avevi dato il 711, l'UHF, l'altro come sto dicendo, l'811 e il V. Sì, l'811, quello se te lo trovi, sono belle, no, vabbè, io quelli no, vabbè, sono, quelli c'hanno 25 watt, io sono, sia in V che in U sono a oltre 100 watt di potenza, no? Non c'è problema. Poi, no, mo molta roba in V1, tutti in base. Infatti adesso che ho il 910H farò fuori sicuramente il 790, c'ho il 780, sempre VEU, c'ho i due gemellini VEU e ne ho tanti anche perché non li uso, quindi sicuramente adesso come si vediamo dobbiamo fare un coso lì, un tipo mercatino, metto tutto su subito e quella roba lì la faccio fuori, capito? Intanto non me ne faccio niente. Ma il 790 cos'è? Come si chiama? Un HF, non è un V? VEU. B-banda, quindi base. Sì, sì, base, guarda, è uguale, se tu lo vedi è preciso all'850 più o meno. Aspetta che me lo cerco, non me lo ricordo come farà. Il 790, dual band. Quello. Ma c'ho anche il 780 io, a 220, trasformatore a 220, 780 sempre la chemo, che è uguale, è quello che hanno fatto prima di quello lì, ma c'è una sensibilità allucinante, roba. Infatti non l'ho mai data quella radio, è nuova, però li metto, li faccio fuori perché mi voglio tenere solo il 910H che è l'ultimo che ho preso, e quelli li faccio fuori, intanto non me ne faccio niente. Belli sono i due gemellini, capito? Belli sono quelli. Ah, che bello il TS790, bellissimo va a fare. Eh sì, l'avevo preso un'occasione. Ti ripeto, c'ho anche il 780, il TS780, che prima di quello è molto più bello. Esteticamente è molto più bello. C'ha meno potenza, ma è molto più bello. E poi il 275H lo stesso. Il VHF da 100 watt con le bande laterali, anche quello lo stesso farò fuori. Perché ne ho un bel di VEU, capito? Perché prima ce l'avevo tutti, uno su una direttiva, uno sull'altro, soprattutto in banda laterale usavo, adesso non sto facendo attività né in banda laterale né senza bande laterali, sto facendo attività con la banda musicale e quindi mi rivendo, cosa ne vai, poi alla fine ci guasta. Ma il 780 è molto simile a TS700, sto guardando se assomiglia a un bel come apparato. Tanto sono gemelli, uno era il dual band e l'altro era il monobanda, sono molto simili, c'ha più roba, è il 780, va avanti, è bello. E poi io ho la linea completa di quello, capito? Ed è un bibanda il 780? Sì, 780 è bibanda, VHF e UHF, 144, 146, 430, 440, quello è bibanda. Ma è aperto il tuo, si può salire? No, si possono toccare quelli sono così, non è buon ducano. Neanche ricezione? Là non si toccano, non ce n'è da toccare lì, no. Io quello così l'ho comprato, quello era di Antonio di Monteoro, dai, per capirci, nuovi, sto accendomi lì, c'è l'antenna, che antenna c'è? Forse c'è l'antenna, non so se c'è la direttiva lì, o la direttiva l'ho cambiata, non ci capisco più niente perché è tutto in fase di abbandono oramai. Però non mi dire che è più bello del coso del 790, che il 790 è una sua musica. No, esteticamente è molto bello quello, non so cosa stai guardando tu, TS780, UHF dual band, è bellissimo, molto bello, molto completo, esteticamente molto bello, stessi 80. 790 è una fagosa, lo vedo, però quello è molto bello. E ti dico che la ricezione che c'è al 780 non so se il 790 ce l'ha, non lo so. Io con il 780 con l'antenna piccolina sulla finestra ricevo Monterraso, con il 790 non lo ricevo Monterraso, con la stessa antenna. Addirittura. Sì, io Monterraso lo ricevo con l'antenna dentro casa, non stai scherzando. Dimmi una cosa, il 790 invece si può allargare? Sì, penso di sì, non lo conosco come radio. La mia l'ho già presa così, espansa. No, nel senso puoi andare a allargarti, praticamente arrivare a 146 e arrivare più su in ricezione, però non me ne ho fatto nulla di trasmissione. E io ti ho detto, io l'ho già comprata così, la mia fa da 430, 4,60, 4,70, una cosa del genere. E poi fa da 144 a 165, 170, una cosa del genere. Come quello che avevo io, quel veicolare, lo stesso era allargato, era nuovo, il Kenwood, che poi l'ho dato in cambio, ho aggiunto qualcosa a quello come si chiama quello che c'è in continente che vende apparecchiature, Media Globo mi sembra, mi ha dato la R3000. Sì, vabbè, no, questo era di Radio Mattoro, che non fa più attività e ce l'aveva già espansi. Ma io sono andato a Cosa, a Posada, a comprarmi la radio quando è, un mese fa. Prima di Natale neanche. Forse prima, sì, prima di Natale siamo andati. Prima di Natale sono andato a comprarmi questa radio a Posada, capito? Ma che farmela spedire, sono andato e me la sono presa lì direttamente. E i gemellini quali sono invece qua? Mi hai detto cioè i gemellini, uno per le V e uno per le U, cosa? 275HIC, 275HIC, 475H. E questo è meglio del 790. Aumenti. Non ce n'è per nessuno, quindi sono il top di chi fa attività amatoriale, sia VHF che UHF. Ma ti dico il top, nonostante abbiano gli anni che hanno, sono ancora il top. Qualsiasi radioamatore ha quelle radio, ma radioamatore che fa attività amatoriale in banda laterale e con la massima potenza, quelle sono due bestie, due bestie. La mia, il 275H e il VHF da 125 watt. Ma questo vabbè, sono di tecnologia, sono già tutti digitali, sono apparati di nuova generazione rispetto al 790. Ma quale? 275H? Allora io qua c'ho il 275H e più c'è il 275A, il VHF, però rispetto al 790 sono una generazione diversa, sono, ci sono 10 anni di differenza. Beh, 790 è uscito dopo. Guarda il 910H adesso di ultima generazione, quella ce l'ho io anche. Il C910H, quella di ultima generazione. Bello questo, ma è più piccolo di quelle altre, del 790. Sì, quello è simile, guarda, è grande quanto un 140. Grande quanto il 140, grande, no guarda, grande quanto il 275H, però la cosa è quella, quanto è un 140? Sì, sì, è bellino comunque, c'ha il display grande e verde, questo, con il tutti e due, c'è anche questo che c'è in fotografia qua, su, non fotografia, che stanno provando, c'è anche le cose, come si chiama? Acqua, i 1200, 1300. Anche questo è VHF, VHF 1200. Questo è completo con tutti i toni, con tutto il baravan, roba via satellite, tutto, completo di tutto. Trasfondere già incorporato, inserito, tutto, tutto, tutto, tutto. L'ho preso per quello, capito? Perché avevo delle radio sia in V che in U, non di ultima generazione, quindi ne ho preso uno insomma più completo con tutto. Infatti ti ho detto quelli li do. Va bene, vabbè, Massimiliano non è rientrato, io ti devo lasciare perché sono le 8:20, devo andare a portare il cane, ok? Se ci sei ci sentiamo dopo. Sto sempre andando bene comunque con l'acqua, sì? Sì, sì, non ho cambiato niente, dai, anche io chiudo adesso, vado a mangiarmi qualcosa, dai. Naturalmente se ne ho voglia ci sono dopo, se no ci sentiamo domani mattina qua, ok? Ehi roba, intanto domani mattina vado a passare da te, capito? Ma 5 minuti. Mi serve solo la morsa col trapanino, se no a colonna direttamente me lo passi tu proprio un secondino, allargarmi il foro e poi ci avvitto l'antennino, vai. Perché non mi ero accorto che uno è da 4, l'altro è da 6. Va bene, ciao Ro, grazie alle due chiacchiere e ci sentiamo. Va bene, lascio tutto così, regolato così, alla grande, così possiamo usare anche questo barrasone americano. Ciao! Sì, ciao, ciao. Massimiliano. Vabbè, non c'è più nessuno sul canale 10? Pronto? Massimiliano, ci sei? Ciao Giuseppe, sì sì, va bene, rimani in quel Rix, già ci sentiamo un altro momento, ciao! Non ho capito. vabbè, dai, rimani in ascolto, ci sentiamo un altro momento, non è un problema. Tanto adesso me lo vado a mangiare. Ciao.